Quarta ed ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco dei Teodasia, Upwards. Come si chiamava questa canzone? Questa canzone si chiamava Pandora's Night e dice che ogni uomo di buon cuore si fa carico dei problemi altrui per dare una mano, ma questo non è il metodo migliore. Bisogna cacciare i mali del mondo in un campo di battaglia. Ecco il nostro cavaliere di Pandora. E allora quali ora gli obiettivi per la band per un futuro prossimo? Recentemente so che avete realizzato un altro video, ne parlavamo prima, e avete delle nuove idee in cantiere. Sì, certo, adesso stiamo per organizzare un tour, almeno speriamo, e molti concerti, infatti ne avremo tra poco, Michele li elencherà, e il secondo disco che siamo in fase di pre-produzione e appunto montaggio. Poi sì, conquisteremo il mondo, sistemiamo i problemi della fame nel mondo in Africa, insomma abbiamo grandi progetti. World Peace. Un po' grandini, eh. Ok, siamo al quinto brano, cosa fate sentire? Noi adesso facciamo sentire Aurora e qui lo sguardo si rivolge letteralmente verso l'alto, verso il transito delle anime dell'aldilà che si mostrano a noi sotto forma di aurora boreale. Il tempo è già volato e noi siamo quasi alla fine della puntata. Vi ricordo i contatti per le segnalazioni, scrivete all'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo www.radiorcs.it per info su Radio RCS, Rock Legends e streaming per ascoltare la nostra radio attraverso il media player. Grazie Teodasia per la partecipazione, a questo punto la parola a voi per i contatti web, per informazioni sul vostro disco ed alcuni live in programmazione. Grazie a te Gianluca, grazie agli ascoltatori. Dunque noi siamo felicissimi di incontrarvi numerosi, speriamo, nei nostri siti www.teodasia.com, www.facebook.com/teodasia e tutti i social network. Il nostro canale ufficiale YouTube si chiama Teodasia Official. Il nostro disco è disponibile in internet, anche in internet, e la distribuzione Audio Globe. Le date più vicine, ragazzi, 18 maggio con i Varg, al Gods of Folk a Casal Romano vicino Mantova, 1 giugno Revolver di San Donato di Piave con i The Moor e 15 giugno suoneremo a San Giovanni di Casarsa con gli Elven King. Pordenone, non mancate. Brano di chiusura? Il brano di chiusura si chiama My Minotaur e qua si discende all'interno del proprio labirinto mentale per un incontro ravvicinato con la propria paura. Gianluca e Teodasi vi salutano, noi ci risentiamo la prossima settimana quando avremo ospiti Violet Gibson, formazione Faentina, che presenterà il disco American Circus. Ciao! Inside the labyrinth I built to hide, a nightmare that I banished from my life. My own two hands have sealed it down. Clever design, it held all my pride. Now it dooms me to strive. No mercy. Inside the labyrinth was my defense, a giant horror living on my fright. Feel the lies about to strike. Clever design.